Lettere a Radio 24, a cura del direttore, con la collaborazione di Luca Cremonese. Ho appreso che il signor Renato Curcio, ex terrorista, ha rivolto un appello perché desidera ottenere dallo Stato italiano la pensione che gli è stata negata dall'INPS. Finalmente l'INPS qualcosa di buono l'ha fatto. Mi nascono spontanee alcune riflessioni. Si può andare in pensione senza aver lavorato un certo numero di anni? Perché il signor Curcio, invece di dedicarsi alla guerra armata e alla rivoluzione proletaria, non si è dedicato come noi tutti a svolgere un lavoro normale? Perché il signor Curcio pretende la pensione quando nemmeno alcune vittime del terrorismo l'hanno ricevuta da questo Stato? Il signor Curcio, in questi anni, ha mai chiesto scusa alle vittime del terrorismo che oggi, a stento, cercano di condurre una vita decorosa? Se lo Stato concede a Curcio una pensione pagata dall'INPS, io chiedo asilo politico all'America o a Israele, che hanno mostrato sempre la loro vicinanza alle vittime del terrorismo e non ai carnefici. È giunta l'ora di dire basta. Basta alla mafia e ai mafiosi che hanno benefici legali. Basta ai terroristi che trovano rifugio in Francia o in Brasile. Basta ai nostri ex terroristi che si mostrano in televisione, radio, giornali, università. Rivolgo a questo punto un appello al dottor Sandro Bondi, ministro dei beni culturali. Signor ministro, passando per Bologna ho notato che sulla lapide che ricorda la strage di Bologna c'è scritto «un attentato terrorista di stampo neofascista». Mi sono quindi recato sulla lapide di mio padre, Lando Conti, ex sindaco di Firenze, assassinato dalle BR, e ho trovato scritto che venne assassinato per mano terrorista. Signor ministro, esiste forse un terrorismo buono, le Brigate Rosse, Partito Comunista Combattente, e un terrorismo cattivo, neofascista? Io credo che tutto il terrorismo sia da punire, sia di destra che di sinistra o di matrice religiosa. Chiedo pertanto un suo intervento per arrivare a garantire la verità storica. Lorenzo Conti, Firenze. Trovo giustissimo che i lavoratori stranieri paghino un contributo per le spese amministrative, sia per avere il permesso di soggiorno che per il rinnovo. Ma faccio presente che lo fanno già, sborsando quasi 80 euro tra documenti e marche da bollo. Il permesso rinnovato arriva spesso dopo mesi dalla scadenza e la consegna avviene in modo avvilente. Tutti in coda per ore e ore all'alba, all'addiaccio, davanti ai commissariati, per essere ammessi tra quelli che vengono chiamati quel giorno. Ho visto delle badanti portare con sé gli anziani che accudiscono perché non li possono lasciare a casa da soli. Io questo lo chiamo mancanza di rispetto per la dignità della persona e quindi sarebbe doveroso che prima di pretendere un ulteriore balzello l'amministrazione trovasse una soluzione a questa vergognosa situazione. Maria Angelica, Milano. Strade in diretta. Buongiorno dalla redazione, condizioni meteo in primo piano in questo primo appuntamento di oggi e allerta infatti su buona parte del nord. Sono attese abbondanti piogge in Lombardia, Liguria di Levante, Toscana, Emilia occidentale, associate le piogge a raffiche di vento e con il rischio di mareggiate, soprattutto in Liguria e Toscana. Nevicherà abbondantemente in montagna e al momento sta nevicando forte al traforo del Monte Bianco, potrebbero rendersi necessari i blocchi della circolazione. E chiusa causa neve la dogana commerciale di Como Brogeda sulla A9, la Inate Como Chiasso, e ci vengono segnalate nevicate a bassa quota in Piemonte, sulla A4, sulla A21 Torino Piacenza Brescia, sulla A26 dei Trafori. Tra Liguria e Toscana soffia un forte vento. La nebbia invece riduce la visibilità su buona parte dell'Emilia Romagna. Ne torniamo tra mezz'ora. Credo che la discussione su Anno Zero di giovedì scorso evada un punto fondamentale. Secondo me Santoro ha perso le staffe quando l'ha annunziata, gli ha fatto correttamente notare che la sua trasmissione era un disastro dal punto di vista giornalistico. Fare litigare in TV delle ragazze su un tema complesso come il conflitto israelo-palestinese è inutile per la comprensione del problema da parte dell'opinione pubblica. Il flop professionale di Santoro è fuori discussione ed è intollerabile per il servizio pubblico. Benissimo ha fatto l'annunziata a farglielo notare. Santoro l'ha capito e per questo si è sentito punto nel vivo. Giovanni. Il problema non è la faziosità di Santoro, ma la sua maleducazione. L'annunziata ha fatto bene a sottrarsi ad insinuazioni e insulti espliciti, andandosene. Caroline. Scrivo a proposito dell'assurda polemica sul programma Anno Zero di giovedì scorso. Ho visto la trasmissione. L'ho vista con l'intento preciso di vedere un punto di vista particolare e sapendo che avrebbe privilegiato una singola visione del conflitto. Così è stato. Tutte le immagini viste e le interviste riportate erano reali, vere, nonché molto forti. La trasmissione mi ha fatto molto riflettere, nonostante sia rimasto e rimanga tuttora confuso, circa l'attribuzione di colpe e meriti. Ritengo che la visione del conflitto evidenziata giovedì sera non fosse stata ancora presentata da nessun'altra trasmissione in Italia. Per questo l'ho apprezzata e non per questo ho perso il mio senso critico verso parole e immagini viste. Non capisco tutto questo polverone alzato dall'abbandono della trasmissione da parte della signora Annunziata. Non capisco perché ci si debba sconvolgere se si tratta un conflitto presentando ed evidenziando fatti e opinioni reali, ma non ancora comunicate. Faziose vuole forse dire false? Se sì, dicano quali e perché. Dicano cosa c'era di non vero, di non reale, di falso. Forse bisognerebbe avvertire prima della trasmissione: attenzione, questa trasmissione è per un pubblico critico, ben informato e non influenzabile. Allora che si dovrebbe fare con alcune puntate di Porta a Porta, con il TG4, il TG3, il Manifesto o il Giornale o altri organi di comunicazione? Se una trasmissione o un giornale sono chiaramente faziosi, va censurato, mentre se sono occultamente o dolcemente faziosi, va tutto bene? Dovrebbero dunque sopravvivere solo gli organi di informazione o i programmi che trattano ogni tematica considerando sempre tutte le possibili fonti e tutti i possibili punti di vista allo stesso modo? Perché? Esistono? Si dovrebbe chiedere inoltre a tutti i signori che si indignano per la trasmissione, innanzitutto se l'hanno vista e, secondo, di dedicare una parte di questa enorme indignazione agli attuali 1200 morti tra palestinesi e israeliani. Forse questi signori pensano che la televisione degli altri abbia un solo canale, che il pollice quando vede Santoro rimanga paralizzato o che il giornale o l'Unità, da dietro l'edicola, saltino in tasca da soli. Francesco Varese. Mi sembra incredibile sentire ascoltatori che solidarizzano con i palestinesi di Hamas nell'attuale conflitto arabo-israeliano. Esprimere dissenso per le vittime di una guerra mi è sembrata una cosa giusta, ma dare la colpa per le vittime di una guerra a Israele è un altro paio di maniche. In un video del 9 gennaio di quest'anno diffuso su YouTube si è visto come Hamas sfrutta le ambulanze ONU per trasportare i terroristi e numerosi sono stati i rapporti negli ultimi anni redatti dalle intelligence dei paesi occidentali su diverse fondazioni arabe operanti in Europa che fungevano da canale finanziario per organizzazioni terroristiche in Palestina, facenti capo ad Hamas. La prova più evidente è poi venuta da Hamas stessa, che non ha mai ripudiato il terrorismo come strumento di lotta, lo ha praticato e si è rifiutata di riconoscere lo Stato di Israele, tanto che l'Unione Europea qualche anno fa ha inserito l'organizzazione palestinese nella lista dei gruppi terroristici. Si dice che c'è una sproporzione di vittime tra belligeranti nell'attuale conflitto in Palestina e si dice la verità, ma anche nell'ultimo grande conflitto, nella Seconda Guerra Mondiale, a un certo punto, dalla fine del 1944 in poi, i morti tra i civili tedeschi a seguito dell'invasione e dei bombardamenti superarono i morti civili degli altri paesi. Però la gente all'epoca sapeva bene chi aveva iniziato la guerra per primo. Sarebbe auspicabile che in una guerra i morti fossero solo combattenti. Ma come si fa a combattere contro un'organizzazione come Hamas, disposta come un corpo militare, che ha sempre praticato gli attacchi armati, che è stata rifornita di armi pesanti grazie ai cunicoli sotterranei con l'Egitto, che sfrutta i civili come scudo e si confonde tra la popolazione? L'articolo 1 del regolamento allegato alla Convenzione dell'AIA del 1907 sugli usi in guerra, al capitolo 1, quando parla di belligeranti, fa alcuni esempi e si riferisce, tra l'altro, a milizie e corpi di volontari che hanno un segno distintivo fisso e riconoscibile a distanza. Hamas non si è mai costituita come esercito visibile, non si è mai veramente distinta dalla popolazione, anzi si è sempre confusa con essa e ha sempre puntato sul cosiddetto buonismo degli occidentali per mettere all'angolo Israele. Tale comportamento non avrebbe avuto buon gioco e non avrebbe avuto consensi agli inizi del Novecento, quando esisteva ancora il coraggio di affrontare l'avversario apertamente e moltissimi stati decisero di stipulare tale convenzione. Questi comportamenti sarebbero stati ritenuti vili e indegni per moltissimi stati all'epoca, ma noi oggi ci riteniamo evoluti e alcuni non guardano chi attacca per primo, Hamas, ma solo il numero delle vittime tra le parti nel conflitto, ovviamente quando fa comodo. Filippo, Padova. Non si può parlare male degli israeliani, severamente vietato. Se ne può parlare fra amici, perché nei discorsi privati gli israeliani stanno sul cavolo a tutti, ma è assolutamente vietato scriverne, perché il potere degli ebrei è ancora fortissimo in ogni campo. Non è forse vero che i palestinesi, in particolare quelli di Gaza, siano delle vittime? Da una parte c'è uno Stato ricchissimo e armato fino ai denti, democratico finché si vuole, ma capace di risolvere i problemi dei palestinesi cacciati dalla Palestina qualche decina di anni fa, solo a suon di bombe e massacri. Dall'altra parte ci sono dei disgraziati, poverissimi, accerchiati, strozzati da un embargo che li sta spegnendo. Nessuno dice che i morti palestinesi siano più importanti di quelli israeliani. Ma c'è un'evidente sproporzione fra il numero dei morti e feriti palestinesi e quelli israeliani, non vi pare? Quindi cosa ha fatto Santoro di così bestiale? Ha parlato della realtà, è vietato? Il fatto è che la realtà è scomoda, molto scomoda per gli israeliani. Mario. Vorrei parlare dello scandaloso servizio trasmesso dal programma Anno Zero, giovedì 15 gennaio, intitolato La guerra dei bambini, all'interno del quale sono state trasmesse, senza nessuna censura, immagini che raccontavano delle vittime di Gaza. Mi domando se sia necessario, per far capire l'atrocità di una guerra, mostrare atroci immagini usando sia bambini che pezzi di essi dilaniati da bombe. L'ultima parte di un filmato è dedicato ad una donna che raccoglie pezzi di cervello del marito esplosi sul muro. La funzione comunicativa di questo servizio è quello informativo? Se questo è servizio informativo, è meglio o quasi non essere informati. Ritengo, da educatrice di ragazzi e bambini, che i servizi presumibilmente giornalistici stiano scadendo e si stiano confondendo con i programmi di Maria De Filippi, dove tutti piangono ed esaltano le proprie emozioni. Si esaltano i drammi personali cercando un colpevole. Questa ricerca è solo un alibi per una vetrina vuota di contenuti. La televisione sceglie le proprie vittime o vuole trovare un punto di raccordo? Il mio augurio è che finiscano le guerre, non solo per la pace nel mondo, ma perché la televisione sia finalmente costretta a reinventarsi e a non vivere delle tragedie altrui. Anna Rita. Vedere morti dei bambini è qualcosa di terribile. Lo sappiamo tutti quanto la forza delle armi sia freddamente spietata e non abbiamo bisogno di Santoro che lo ricordi. Ma cosa succederebbe se i missili di fabbricazione iraniana che volano sulle teste israeliane senza fare vittime fossero caricati con piccole testate tattiche che dopo l'esplosione rendessero le falde acquifere velenose e i terreni incoltivabili per 100 anni? Purtroppo l'Iran sta portando avanti un progetto che solo in pochi sono in grado di valutare e ancora in meno in grado di contrastare. Si devono assolutamente bloccare quelli che creano la falange armata di Hamas. Fonti non ufficiali danno Ehud Barak a capo di una forza di élite che circa 2 anni fa è entrata in Iran facendo esplodere dei siti dove tali ordigni potevano essere creati. Purtroppo tutto ciò non è impossibile e non è fantascienza. Quindi Santoro faccia pure i suoi programmi che giustamente fanno ascolto e tirano audience e pubblicità sulla TV pubblica. Ma cerchi di informarsi seriamente anche attraverso fonti dello Stato. Domenico. Riguardo a Gaza, mi domando come mai nessuno abbia accennato ai contributi finanziari inviati ai palestinesi prima di Arafat, OLP o Hamas. Quanti sono? Dove sono finiti? Forse li hanno usati per i bambini della striscia di Gaza? Al di là dell'ipocrisia sui bambini di Gaza, dove sono finiti i soldi di Hamas? Nessuno, dico nessuno, ne parla. Gesualdo. Mi piacerebbe che il signor Santoro si informasse sul costo di un missile Qassam per rendersi conto di quante scuole e ospedali si potrebbero costruire con il valore dei 12.000 missili spediti a Israele. Soprattutto tenuto conto che gran parte dell'apparato pubblico palestinese sopravvive con contributi dell'Unione Europea. Maurizio. In queste ultime ore emerge da parte del nostro governo l'intenzione di mandare altre truppe in Medio Oriente per fare da spartiacque fra Israele e i palestinesi di Hamas. Ed è sicuramente una buona idea e per di più già collaudata nel Libano e altrove, con ottimi risultati. È noto però che siamo già impegnati in parecchi altri fronti con le nostre truppe, Kosovo, Afghanistan e Africa. Quello che vorrei sapere da cittadino contribuente è: Chi paga le spese di questi interventi? Perché se rimane tutto a carico dell'Italia, avrei qualcosa da obiettare, e cioè, dov'è la partecipazione finanziaria degli altri paesi europei? Perché non si crea un'alternanza di truppe e di mezzi di ciascun paese, secondo un ordine prefissato, in modo da non gravare su un solo paese? Esiste un fondo comune europeo a cui attingere, lasciando libertà di intervento a chi vuole andare? Fabio. A causa della recente crisi dei mercati, a breve verrò messo in cassa integrazione e successivamente in mobilità. Ho 42 anni e cercare una nuova occupazione ora è disarmante. L'estate scorsa il ministro del welfare, Maurizio Sacconi, ha proposto l'abolizione del divieto di cumulo tra redditi da pensione e da lavoro. Sarà vero? Cosa significa? Che sarà abolita ogni penalizzazione per i pensionati che continueranno a lavorare? Perché il governo è intenzionato a lasciare a chi si è ritirato la libertà di lavorare? La vecchia normativa prevedeva che si perdesse tutta la pensione, mentre con quella nuova ci si potrà mettere in tasca sia l'assegno della pensione, sia il nuovo stipendio. Vengo al punto. Di questi tempi vi sembra normale lasciare a casa i giovani e richiamare i pensionati al lavoro? Paolo. Sono un single, da oltre due lustri, e non mi trovo d'accordo con i dati dichiarati da Coldiretti, che attribuisce ai single il record degli sprechi di generi alimentari. I miei personali dati economici, che seguo molto strettamente, non mi fanno dire di essere uno sprecone con le tasche bucate e con il frigo pieno di muffe e di cibo scaduto. Se il minestrone è per due, basta mangiarlo due sere consecutive, dico sempre. Inoltre, la mia rigorosa attenzione all'ambiente porta rigetto a sentire parlare di pattumiera. Questa è la mia posizione personale, mi spiace se molti single non fanno altrettanto. Comunque non mi sento né il pastore che sta al lato del gregge, né il cane che corregge chi erra. Sono solo un semplice e mite cittadino che vive nella sua modestia. Agostino. Gentile direttore, sarò grato a lei, e con me le sarà grata la lingua italiana, la migliore del mondo, se vorrà spiegare ai suoi collaboratori in voce che media è una parola latina, il plurale di medium, preciso visto che non lo sanno, e quindi si pronuncia media, viva Dio, e non media, in una vana e indisponente scimmiottatura di una pronuncia texana, con la quale, grazie al cielo, non abbiamo niente da spartire. Almeno noi rispettiamolo, il nostro latino. Grazie, Sergio. Caro Sergio, la ringrazio, ha perfettamente ragione. La contaminazione dell'inglese nelle parole latine non è né bella né utile. E non è solo il simbolo di una scarsa cultura classica, è anche un sintomo di scarsa attenzione nel linguaggio. C'è solo una piccola scusante che mi fa chiedere gli attenuanti nel giudizio verso i giornalisti. È vero che con la pronuncia texana a cui lei fa riferimento non abbiamo niente da spartire, ma è altrettanto vero che, devo dire purtroppo, ormai abbiamo poco da spartire anche con la cultura latina o classica, che dir si voglia. La scuola insegna poco e nel mondo dell'economia l'inglese resta la lingua della comunità degli affari. La sua è una battaglia doverosa, ma metta in conto anche di dover accettare delle sconfitte. I media, i media sono anche lo specchio della società e una certa contaminazione del linguaggio. Dobbiamo metterla in conto. Queste erano alcune delle lettere selezionate tra quelle che ci avete inviato all'indirizzo lettere@radio24.it. Il prossimo appuntamento con le vostre lettere a Radio 24 è oggi pomeriggio alle 18:30. Continuate a scriverci.